Cosa in più? Più che dirti penso ormai lo abbia anche tu, che la conosci anch'io, ma tu ragazzo lo riconosci. Blocco, blocco mentale in due non presentarti. Due come voi che pensano alle ragazze degli altri. Altri intanto si fanno le nostre ex. Meglio se me li scosto, meglio se poi non li conosco. Il fatto è che piuttosto di venirti in quel posto mi sporco io, ma si può far tutto questo di nascosto? A posto, piccola, guarda un po' cosa ti mostro. Ti mostro mega attrazione per l'estro opposto. Lo spazio è questo e purtroppo spesso è ridotto qui del nostro. Tempo a disposizione oltre le 8. Grasso, metti che ingrasso, stress io mi rilasso. Mollami quello, wow, che te la passo. Chiasso, d'agosto fino a maggio, altro passaggio. Ma non puoi con tutto, uomo, controllati, che coraggio. Cosa hai, cosa hai, più di noi hai soltanto il gran coraggio. Mica perché ti sei fatto una tipa in più, una più. È che per noi hai vissuto anche il peggio. Peggio di quella tipa non sappiamo che ci sia, né se ci sia. So che per pensarci ci serve più fantasia. Chi è come te dilaga di frenesia. Vuoi che sia la saga di chi la paga in follia. E di lei, oh, lei, oh sì, ma lei cos'è che dice? Ogni rapporto in sé comporta un finale infelice. Sì, ma da solo è un po' difficile che ti si veda. Vedi che ancora aspetti uno che sia una minima di garanzia. Razzia, pazzia, se navighi l'idiozia. Dozzine di storie in partenza sbagliano corsia. Chiamaci anche se non ci vedi un gran che pesi. È che non sento la tua voce da troppi mesi. Bella basi, incompresi sì ma troppo cortesi. Compressi in telefonia, telefobia, volti in telefolia. Nomi su nomi, nomi su nomi, non mi ricordi volti. Moltiplicando i conti che tornano ci lasciano sconvolti. Lei è lo stesso discorso, lo stesso viaggio. Lo stesso percorso che prendi con del gran coraggio. Usa anche il tuo stesso linguaggio. Lei che racconta tutto degli amici. Lei è la bici del villaggio. Cosa in più di noi hai soltanto del gran coraggio. Mica perché ti sei fatto una tipa in più, una tipa. È che per noi hai vissuto anche il peggio. Peggio di quella tipa non sappiamo che ci sia, né se ci sia. So che per pensarci ci serve più fantasia. Chi è come te dilaga di frenesia. Vuoi che sia la saga di chi la paga in follia. Cioè, poi alla fine no. Chi è? Oh no. Chi è? Ma alla fine secondo me che poi sono loro. Fucking around with those bitches. Fucking around with those bitches. Fucking around with those bitches. Fucking around with those bitches.